cose che invece vi hanno colpito, che magari sono passate un po' più inosservate. Il bilancio, come sempre, qui a Radio 24, non ci sono più le mezze stagioni delle notizie della settimana, con l'assoluta libertà di esprimere le vostre opinioni, le vostre riflessioni sui fatti e di raccontare quello che ritenete opportuno, appunto a proposito delle notizie della settimana. Un numero verde sempre per voi, aperto tutta l'ora, sino alle 15, stiamo insieme, 800 24 00 24. Come al solito ce ne sono moltissime di fatti, quindi è chiaro che sarà una sintesi proprio estrema, però ovviamente vi chiedo sempre il vostro ausilio anche nel caso vi fossero delle cose che meriterebbero ancora una volta di essere sottolineate. Vi ricordo ancora il numero 800 24 00 24 e come in ogni puntata invito un ospite che mi fa da opinionista per la puntata in questione. Oggi è Marcello Veneziani. Marcello, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a te Marcello, scrittore, saggista, giornalista, famoso naturalmente, e appena pubblicato per Mondadori un libro con un titolo di estrema attualità, anche se diciamo che per la storia italiana è sempre di estrema attualità questo titolo, Sud, un viaggio civile e sentimentale. Marcello, prima che entriamo nel cuore, insomma, dei fatti della settimana, vuoi dirci così brevemente qual è il succo del... Quello che mi colpiva era, per esempio, nella seconda di copertina dove si dice il Sud si sta svuotando di anime, soprattutto questo è inquietante, di anime, e poi dice culture e popolazione tra emigrati e denatalità, e poi tutto il resto del libro ovviamente. Sì, questo è un libro che da una parte è un viaggio, come dire, d'amore nella terra delle origini, delle mie origini del Sud, e dall'altra parte è un tentativo di leggere il Sud com'è attualmente, al di fuori dalle vecchie questioni del Sud attraverso i meridionalisti di una volta o attraverso la riduzione del Sud a questione criminale, come sta accadendo con molti film, libri, romanzi, eccetera. Il mio è il tentativo di incontrare il Sud così com'è, partendo da quella considerazione un po' allarmata, cioè che il Sud si sta svuotando sia perché ha superato il nord in denatalità, sia perché c'è la fuga dei ragazzi, degli intellettuali, ed è una fuga abbastanza preoccupante. Però dall'altra parte ci sono anche risorse, ci sono anche possibilità per il Sud. E la chiave di lettura del mio libro è questa, cioè che il Sud può crescere non smettendo di essere Sud, cioè è impossibile immaginare il Sud come un nord in ritardo. Il Sud è il Sud, va accettato così com'è e vanno riconosciuti, convertite in virtù quelle che oggi sono molte delle sue malattie, molti dei suoi vizi, e quindi il tentativo è quello di riproporre un'identità meridionale compatibile col nostro tempo. Marcello, perdonami questa piccola lacuna, tu sei pugliese? No, non mi ricordo. Sì. Sei pugliese. Ecco, sì, mi ricordavo bene. Allora prima di affrontare le notizie più serie, mi viene in mente, proprio perché stavo riflettendo su questa cosa, la pubblicità è una notizia di ieri, non so se l'hai vista, la Lufthansa, la compagnia aerea tedesca, ha lanciato una pubblicità per promuovere i collegamenti tra Lombardia e Puglia, no? E allora che cosa ha fatto? Ha deciso di prendere, di usare uno dei detti, forse il detto più famoso barese, almeno così. Sì. Adesso io cerco di dirtelo, tu di che città esattamente sei? Ma io sono della provincia di Bari, anche se mutano i dialetti con una vertiginosa rapidità. È vero, in Puglia tantissimo, sì. Splendida la Puglia, è molto variegata sia nei paesaggi che nelle tradizioni che nel dialetto, appunto. Allora io provo a dirlo in perfetto barese, ma non essendolo, quindi dirò una cosa terribile. Questo detto è: Cemelane teneve umare, aveva iesse una piccola bare. Cioè, in realtà il proverbio originale è applicato a Parigi, dice: se Parigi avesse l'umare sarebbe una piccola bare. E Bari poi se ne è appropriata di questo detto, no? Sì. E sarebbe: se Milano avesse il mare sarebbe una piccola Bari. Però sì. Adesso c'è una educata ma decisa, forte polemica del Centro Studi Baresi, che richiede l'intervento del sindaco di Bari a difesa della lingua, del dialetto. Insomma, il detto corretto è quello che dicevo prima, no? Ma sì. Piuttosto lontano dall'origine originale invece quello che ha adottato Lufthansa, che è così: se Milano avesse l'Umer sarebbe una piccola bere. Ecco, ha deciso in questo modo di sponsorizzare, dicevo, i collegamenti tra Lombardia e Puglia. Felice Giovine, che è l'anima dei difensori di questo dibattito cittadino, protesta e accusa il detto così trasformato nulla a che vedere con la lingua barese, anzi in questo modo diventa denigratorio. Si è stanchi e stufi del continuo scempio che viene perpetrato a danno dell'immagine della città di Bari. Sei d'accordo tu? Non mi pare che ci sia un danno all'immagine di Bari. Io credo che questi detti abbiano questa bellezza, che possono essere modificati anche, come dire, spiritosamente. Poi non credo che, come dire, ci fosse una serietà originale nel paragonare Bari a Parigi e poi sia stato tradito nel paragone tra Bari e Milano, cioè, voglio dire, quindi già dici c'è stata una licenza in origine, sì, già, no? Già era spiritoso e grottesco in partenza, cioè considerare Parigi una piccola Bari, insomma, e quindi applicarlo a Milano mi sembra una logica conseguenza, insomma, nulla di più, insomma. Allora, nel frattempo io ricordo ancora il numero alle ascoltatrici e agli ascoltatori se volessero intervenire sulle notizie della settimana e su tutto quello che diciamo adesso insieme a Marcello Veneziani sino alle 15. Il numero verde, vi dicevo, è 800 24 00 24. E naturalmente ci vuole sempre qui in trasmissione un collegamento con un altro pianeta, così per allargare gli orizzonti. Riflessioni da Marte. Dunque, proviamo a fare come sempre un'istantanea da quassù dei bipedi umani italici e non. Quindi in Italia, come altrove, i matrimoni falliscono sempre di più, sono i dati Istat, ma evidentemente gli italiani sono così affezionati al concetto di matrimonio che sempre più numerosi convolano a seconde nozze, una volta naufragate le prime. Samuel Johnson, letterato britannico, diceva, pensate, già nel Settecento: il matrimonio è il trionfo dell'immaginazione sull'intelligenza, le seconde nozze sono il trionfo della speranza sull'esperienza. Come a dire, insomma, che l'esperienza serve a poco e che la speranza è sempre l'ultima a morire. A causa della crisi, intanto in Spagna si vendono organi umani, ma per essere al passo con i tempi si smerciano online. La Ryanair, nel frattempo, la compagnia low cost più famosa del mondo, se la prende coi super cicciotti, decidendo, dopo la proposta della tassa sulla pipì di qualche giorno fa, di elaborare una fat tax, una tassa sul grasso. Non si capisce bene se per ovviare alla crisi, se per penalizzare quelli che occupano più spazio del dovuto o perché l'eccesso di peso fa consumare più carburante agli aeroplani. Fatto sta che il comportamento umano, spesso paradossale e dannoso, fa imbufalire persino gli elefanti, che in India infatti assediano da giorni una decina di villaggi, costringendo gli abitanti a trincerarsi in casa per sfuggire all'ira dei pachidermi. Per gli ambientalisti, l'intensificarsi di queste aggressioni degli elefanti è dovuta alla riduzione delle aree forestali causate dal disboscamento, perché sembra che gli animali subiscano e basta, ma a un certo punto anche gli elefanti, nel loro piccolo, come si dice, si incavolano. I maiali dal canto loro si beccano l'influenza in America e Centro America, e il loro malgrado ne rendono partecipi anche gli esseri umani, con quali esiti è ancora da capire. Insomma, tutto di nuovo e niente di nuovo sulla Terra. Tu sai, Marcello, che leggevo che anche le formiche hanno i loro agenti immobiliari. Ah, veramente? Sì, sì, leggevo che questa è una ricerca condotta seriamente dall'Università di Bristol, che ha mostrato come quando in cerca di un luogo adatto a fondare una nuova colonia le formiche mandano in una scoperta un gruppo di ricognizione composto da esemplari dotati di un fiuto istintivo, no, per il posto giusto. Poi, una volta fatta questa scelta da parte di questo gruppo, le formiche agenti cercano di venderla agli altri membri della colonia, e solo quando un numero sufficiente delle altre formiche ha visto la potenziale nuova dimora ed è d'accordo a spostarvisi, l'intera colonia si trasferisce. Questo per rimanere, insomma, su tematiche di animali. Invece, per fare, dicevo, una estrema sintesi di alcuni, almeno dei fatti della settimana, poi dimmi tu se ce n'è uno in particolare sul quale vuoi soffermarti. Ovviamente notizia di ieri, questa dell'influenza suina negli Stati Uniti e Messico, che sta mietendo alcune vittime, e insomma speriamo che siano pronti ad arginare. Hanno detto c'è alto rischio ma non ci sarà una pandemia. Poi il 25 aprile, oggi naturalmente lo sapete, sabato 25 aprile, festa della liberazione, festa storica per il nostro paese, dove però non mancano mai proprio ritualmente le polemiche. polemiche, ed è stata quella di oggi, la prima volta di Silvio Berlusconi, che aveva deciso che doveva celebrarla, la celebrata a Onna, il paese simbolo del terremoto in Abruzzo, perché quasi completamente raso al suolo, e ha detto la festa di tutti. Poi il G8 che sarà spostato dalla Sardegna, dove doveva essere, dove si doveva svolgere, all'Aquila. La questione Fiat, questo caso tra Bruxelles e l'Italia, che anche il governo italiano si è mosso, insomma, almeno le parole, contro il commissario dell'Unione Europea, che diceva che Fiat non è in grado di, fra le scalate, a parte Chrysler per esempio, di comprarsi o di acquisire in parte Opel. La crisi finanziaria, non mancano mai le notizie sulla crisi, ovviamente questa crisi globale che ci colpisce così pesantemente a livello mondiale e che, leggevo in questi giorni, costerà 4.000 miliardi di dollari alle sole economie avanzate. Poi Tremonti, per quanto riguarda l'Italia, che ha detto sì, la fase apocalittica è finita, non è ancora Pasqua ma siamo in Quaresima, quindi vedremo un po', insomma, progressivamente dovrebbe migliorare. Per quanto riguarda la cronaca, la coppia tedesca che aveva abbandonato tre bimbi ad Aosta, che poi è stata ritrovata a Varese, questo efferato delitto di due ragazzi ventenni che hanno ucciso un loro amico coetaneo 17 anni in modo veramente brutale. Se vogliamo andare su cose più leggere, il calcio, con Adriano che ha rescisso il contratto con l'Inter e Ibrahimovic che vuole provare, dice, cose nuove, nuove esperienze. Poi si sono chiusi, per chi fosse interessato, i reality questa settimana. Magari si può fare anche un'analisi così, ma come si può dire, sociopsicologica. Non so, tu Marcello Veneziani, c'è una di queste cose che sulla quale vorresti puntualizzare? Sì, ma credo che la cosa più significativa oggi sia proprio il 25 aprile, perché mi pare che sia avvenuta una cosa abbastanza nuova per la storia del nostro paese. Per la prima volta c'erano tutti, cioè abbiamo visto un ex missino come Ignazio La Russa accanto al capo dello Stato ex comunista, abbiamo visto Berlusconi appunto festeggiare la festa della liberazione, e questo da un verso è sicuramente un aspetto confortante, perché finalmente il paese ricuce le proprie ferite, si ripropone unitario, digerisce il proprio passato, e quindi è un fatto sicuramente incoraggiante. Dall'altra parte forse può sorgere qualche dubbio sul rischio di farlo diventare un po' una parodia, perché quando poi tutti entrano in una festa che è sempre stata purtroppo lacerante per il paese, perché ha diviso il paese, c'è il rischio che come dire, si passi dalla tragedia alla farsa, che diventi soltanto, come dire, una finzione, con tutti gli effetti che poi produce una finzione. Ci sono state tante modifiche. Ecco, il più originale in questo mi è sembrato Casini, che oggi ha detto che dobbiamo fare una nuova resistenza contro le calamità naturali, cioè è stato un modo abbastanza estroso per superare le divisioni, ritenendo che il nuovo nemico non sia appunto il nazismo, il comunismo, ma sia il terremoto. Insomma, ecco. E mi sembra un una originale. Cosa abbastanza originale. Insomma, ecco. Senti, cominciamo a sentire, Marcello, gli ascoltatori al numero verde 800 24 0024, a sentire un po' che idee si sono fatte venire, che opinioni hanno da esprimere, quali sono le notizie che le hanno colpiti di più. C'è Sara da Trento. Sara. Sì, buongiorno. Ecco qua, rompere il ghiaccio. Buongiorno a te, Sara. Sì, intanto voglio fare i complimenti al tuo ospite. Sì. Perché io ho visitato per lavoro la Puglia. Sì. Ho fatto Alberobello, Bari, Lecce, e ho trovato anni fa un'ospitalità che è una cosa incredibile, non la trovo in tutta Italia. Beh, i pugliesi sono pugliesi, un po' tutto il sud, ma i pugliesi in particolare, devo dire, sì, anch'io poi, amo molto. Dicono tanto che il sud è messo male, che io ho visto un paesaggio incredibile, tutte cose curate, cioè, e poi la gente veramente si tiene molto all'ospitalità, cosa che magari non trovi in altre parti d'Italia. Sì, quello è calore, tradizione tipica di quelle zone. Poi ci sono località, territori tenuti meglio, situazioni un po' più di degrado, insomma, abbastanza variegato. Ecco, eccoci qua. Sì. Sara, allora, quindi su quale notizia volevi ecco, tornare? Ecco, io volevo parlare un attimo del discorso di Berlusconi che ha preso quelle ragazze, no, per mandarle al Parlamento Europeo. Ah, stai parlando delle candidature per le elezioni europee? Sì. Sì. Allora, ne è venuta fuori una bagarre, io ho sentito un sacco di, scusami, stupidaggini, perché qualificano sempre la donna bella come una donna stupida, e siamo nel 2009, cioè lasciamogli almeno il beneficio del dubbio a queste ragazze, perché magari, siccome sono belle, hanno usato la prima cosa che avevano d'impatto, che è la bellezza, e probabilmente hanno anche altre doti, come ad esempio la signora Carfagna, perché... Cioè, io non so se è laureata, perché non ho visto il suo curriculum, robe varie, Però mi sembra di sì, sia laureata in giurisprudenza, se ricordo ecco, bene. Allora, di solito no, collocano la persona intelligente come un po' bruttina nel fatto femminile, sì o no? Sì, no, è vero. Poi di uomini adoni nella politica siamo abituati a non vedere, ma lì non vale, l'aspetto estetico. Un uomo può essere anche il meno capace, se non addirittura il più stupido, ecco. Che però merita certamente più di una donna in genere i ruoli di potere. Ecco, allora io vorrei spendere una parola per quelle ragazze, perché non ho sentito una persona, né femminile né maschile, che dica diamogli il beneficio del dubbio, vedere se magari hanno anche le capacità intellettuali per poter affrontare una cosa del genere, perché sono arrivate là con quelle doti che avevano, ma probabilmente avranno anche delle doti nascoste che non sono quelle che conosciamo noi, perché noi le conosciamo solamente per la visibilità. Però ad esempio la Simona Ventura, scusi, senza far torto alla sua, non so se è diplomata, se è laureata, eppure tutti la portano come se fosse la super, cioè come è la super Simo, perché ha delle doti. Vabbè, è quello, e si servono altre doti per la conduzione, per lo spettacolo. Vabbè, sì. Sono questioni un po' diverse, però no, apprezzo da parte tua, Sara, da parte di una donna, ecco, questa arringa in favore delle donne, che se sono belle non necessariamente ci mancherebbe, anzi conosco donne bellissime che sono molto molto intelligenti. Sentiamo, Sara, ti ringrazio di questa cosa. Ciao. Sentiamo, ciao Sara, prima della viabilità, se Marcello Veneziani vuole spendere qualche parola su sì, ma devo dire, anch'io apprezzo, ed è abbastanza insolito che una donna sì. parli bene delle donne belle, quindi questo è un fatto positivo. Beh, ce ne sono più di quanto si pensi, sì, mi sì, fa no, questo devo dire, però c'è sempre una competizione, sì. diciamo, in questo. Ma devo dire però che in questo caso, diciamo, la ragione per cui vengono candidate o sarebbero candidate è una ragione puramente, come dire, estetica, cosmetica. Non mi sembra che sia un grande dato candidare una persona soltanto perché ha un aspetto piacevole. Insomma, io devo dire, sto apprezzando per molte cose l'esperienza del governo Berlusconi, però su questo suo, diciamo, residuo sultanismo, come lo chiama Sartori, beh, sì. sono un po' scettico, cioè, sì. è bene che separi la dimensione privata, che può coltivare come vuole, con la dimensione pubblica, istituzionale e parlamentare, quindi insomma non basta la bellezza per essere candidate. Credo di essere d'accordo con te, Marcello, pur apprezzando l'intervento di Sara, e ripetiamo, non è perché una donna è bella non deve essere intelligente, però è vero di questo residuo sultanismo, come diceva Marcello Veneziani, come diceva Sartori. Eccoci di nuovo insieme. Stavo guardando le agenzie fresche che arrivano man mano, e per chi fosse interessato, per gli sportivi amanti dell'automobilismo, il pilota della Toyota Jarno Trulli ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Bahrain davanti al compagno di squadra Timo Glock. Ottava la Ferrari di Felipe Massa, decima quella di Kimi Raikkonen. Jarno Trulli ha detto subito dopo le parole sulla pole position conquistata, contento eccetera, essendo abruzzese, ha detto: il mio primo pensiero va all'Abruzzo. Infatti si era mosso anche per alcune iniziative a favore dell'Abruzzo, del terremoto che ha colpito l'Abruzzo. Ritorniamo invece sulle notizie. Il numero verde per gli ascoltatori è 800 24 00 24. Marcello Veneziani, sempre mio ospite naturalmente qui a Non ci sono più le mezze stagioni, ha appena pubblicato un libro, Sud, un viaggio civile e sentimentale, un libro piuttosto bello con tutti gli aspetti controversi del Sud. E allora mi viene in mente di chiederti, Marcello, ci sono usciti vari rapporti dell'Istat in questi giorni. Uno, quello appunto relativo al fatto che aumentano le seconde nozze in Italia, anche se gli italiani si disaffezionano al matrimonio, poi però si risposano una seconda volta, e sono in crescita per esempio i matrimoni civili, quindi quelli fatti non in chiesa. Poi un altro rapporto sugli italiani a rischio alcol, 8 milioni e mezzo sarebbero, è molto preoccupante la situazione relativa ai minori e ai più giovani. E poi quello relativo invece alla povertà assoluta, 2,5 milioni in Italia sono i poveri veri, e al sud una famiglia ogni 5, a me pare una cifra spropositata, no? Beh sì, ma abbastanza ragionevole, cioè corrisponde alla realtà, insomma, mi pare, sì. 5 sì. è una percentuale che si avverte, insomma, voglio dire, andando soprattutto nell'entroterra, nelle contrade e nelle grandi metropoli, nelle periferie delle grandi metropoli del sud, c'è davvero una presenza preoccupante di nuova povertà. Senti, ma che cos'è? Ancora la sua storia che le fa da zavorra al sud, che lo tiene ancora così tirato verso il basso, soprattutto nell'economia, poi rispetto anche ad altre cose, con tutto l'amore che ho e che abbiamo per il sud, che che cos'è? Una volontà della politica deteriore? No, io credo che sia una crisi generale che colpisce le parti più vulnerabili del paese, cioè una parte storica più vulnerabile come il Sud, che ha avuto una difficile modernità, una fragile modernità, e dall'altra parte appunto una crisi economica che sta falcidiando, ovviamente comincia a colpire le zone, le aree meno ricche, più povere, e credo che questo dipenda sì da un intreccio di fattori storici, ma anche, se vogliamo, da quella convinzione che al Sud ci si possa salvare soltanto andando via. E allora, considerando che sta avvenendo questo, c'è una continua perdita delle energie più dinamiche del Sud, e allora questo indebolisce il tessuto del Sud, cioè lo rende inevitabilmente più povero, quindi è la nuova emigrazione, credo, uno dei principali motivi per cui i meridionali si salvano come singoli, ma poi come dire, si dannano come sistema, come rete, e quindi il Sud sprofonda, insomma, ecco. Di nuovo il numero verde per le ascoltatrici, per gli ascoltatori: 800 24 00 24. C'è Ibrahim da Pisa? Ibrahim, sì. Eccoci qua, sì. Benvenuto Ibrahim. Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, grazie a te per avermi richiamato. Grazie per aver chiamato. Volevo approfittare della presenza del suo ospite, sì, che conosco, insomma, questi che seguo attraverso i media, per farle una domanda, no? Siccome questa settimana c'è stata una polemica di nuovo con questa legge anti-kebab, non so. Sì. Ora, io non tanto per il fatto della legge, perché vabbè, ognuno ha il diritto di prendere le leggi che crede opportune, eccetera, ma il dibattito che ne segue. Voglio dire, per esempio, l'altro giorno ho sentito su una trasmissione di un suo collega, La Zanzara, interveniva un consigliere, no? Credo che sia di AN, insomma del PDL attualmente, ma ho sentito nella sua argomentazione una tale presunzione, cioè, come se ancora sentiamo dei discorsi veramente troppo vecchi. Ora io voglio chiedere al suo ospite, ma non è che questi discorsi fanno sembrare l'Italia un po' arretrata, cioè, perché, cioè, a parte che vabbè, il kebab è solo un caso, sì, sì, aspetta, ma voler, sì, beh, prego, prego, voler sempre far vedere questa minaccia culturale. Voglio dire, gli immigrati in Italia non hanno nessun mezzo per, cioè, per dominare un paese culturalmente bisognerebbe avere, no, certi. Dimmi una cosa, Ibrahim, tu di dove sei originario? Io sono originario del Senegal. Del Senegal. Allora, spieghiamo, per chi non, magari non avesse seguito questa vicenda, Ibrahim, spiego che è una legge varata in questi giorni dalla regione Lombardia, che è stata chiamata anti-kebab, mi sembra però un po' parziale, ecco, chiamarla così, anche se questa è stata la definizione poi sui media, eccetera. In realtà la sostanza di questo provvedimento è che non si potrà mangiare anche il trancio di pizza, il gelato, il kebab, il panino, insomma, si può mangiare solo dentro il locale, ma non fuori, immediatamente fuori dal locale, sulla strada, perché spesso, così ha precisato poi il consiglio regionale, questi piccoli locali, negozi eccetera, hanno l'abitudine di mettere fuori degli arredi esterni, come dei tavolini, delle panchine, degli ombrelloni, e questo non si può, quindi sono soggetti a multe, non gli avventori ma i negozi, per l'inosservanza, dai 150 ai 1.000 euro. Questo probabilmente per una questione, non so, di decoro, di non sporcare fuori. Marcello Veneziani, su questo... Beh, sì, diciamo, questa norma per ragioni sanitarie è comprensibile e credo condivisibile. Il discorso invece che viene fatto ogni tanto è, come dire, l'invasione nelle nostre città, nei nostri paesi, di negozi, servizi eccetera, che rendono sempre più, come dire, la perdita dell'identità di una città. Io credo che sia giusto, comprensibilmente e compatibilmente con la libertà di ciascuno, di preoccuparsi anche di questo. Cioè, io quando mi trovo in un paese voglio, come dire, prevalentemente avere la possibilità di accedere ai prodotti di quel paese. Io sono abbastanza, come dire, disorientato quando in un paese di tradizione araba e islamica non trovo, come dire, negozi di kebab, ma trovo dei McDonald's, insomma. Lo reputo una violenza fatta a loro, perché un conto è avere una presenza sul territorio, che è una cosa giustissima e sacrosanta, un'altra cosa è avere la prevalenza. A me è capitato di vedere in alcune zone di Roma, cioè, che a ogni isolato c'erano 3-4 negozi di kebab. Ecco, questo mi sembra che un po' sia disorientante per un cittadino. Bisogna anche rispettare le identità e le tradizioni di un paese, quindi bisogna cercare la via di mezzo equilibrata tra la libertà di ciascuno di intraprendere le iniziative imprenditoriali che vogliono, ma anche, diciamo, il rispetto del luogo e del paesaggio, quindi nessun odio etnico, per carità, cioè, si tratta soltanto di rispettare le proprie tradizioni. Insomma, preferirei, come dire, andare in Puglia a mangiare focacce piuttosto che kebab, o andare in un paese come l'Algeria, come la Tunisia, e mangiare kebab e non focacce. Insomma, peccato che sia caduta la telefonata di Ibrahim, perché mi sarebbe interessato sapere se insomma condivideva un po' anche questa specifica che tu hai fatto, che non è una battaglia contro una cultura o un prodotto in particolare, ma tu dici perché è bello trovare nei posti almeno le tradizioni belle, ecco, magari altre cose negative dell'una o delle altre culture, che sia la nostra, questa, però dici almeno le cose che ci ricordano, non so, la nostra storia, la nostra infanzia, le abitudini, i riti. C'è sempre il numero verde 800 24 00 24, Roberto da Verbania. Che però, Roberto, dovresti spegnere la radio, perché ho risentito la mia voce quelle 3-4 volte. Passata, okay. Benissimo, bene Roberto. Ecco. Così, niente, io volevo ricollegarmi a quello che ha detto Sara prima, no? Sulla bellezza delle donne proposte da Berlusconi, sì, eccetera. Io poco tempo fa, sento sempre la vostra radio, ho sentito da un'intervista che la percentuale di assenteismo dei parlamentari europei di origini italiane eletti dall'Italia è altissima, sì, se non la più alta d'Europa. E sono molto, sono anche forse più pagati, mi pare di ricordare. Prego? Mi pare di ricordare che siano anche i più pagati gli italiani. Ecco, oltre ad essere i più pagati, sono anche i più assenteisti. Allora dico io, che importanza ha essere bravi, belli, educati, far politica, se poi non presenti mai alle riunioni, eccetera? Quindi l'istruzione o la bellezza è tutto un valore relativo. L'importante è che queste persone partecipino al Parlamento europeo, altrimenti è inutile mandarli e pagarli. Certamente, Roberto, è come non condividere la tua opinione. Che cosa stai facendo prima di lasciarci per una piccola pausa? Posso chiederti a quest'ora di sabato, se non sono troppo indiscreta? Cosa? Posso chiederti cosa fai, Roberto, a quest'ora del sabato, oltre ad ascoltare Non ci sono più le mezze stagioni? Io sto andando a trovare mio figlio, che abita vicino a Varese. Non è un bamboccione, abita da solo, quindi. Prego? Non è un bamboccione, ma abita da solo. No, abita con la sua donna, eccetera. Ah, bene, bene, indipendente. Allora, grazie Roberto, salutaci tuo figlio. Sempre Roberta Giordano con voi sino alle 15, mio ospite oggi in veste di opinionista, come io ho chiesto di fare, come in ogni puntata chiedo di fare un uomo, una donna, diciamo così, di cultura, che abbia scritto un libro di recente, Marcello Veneziani, che è giornalista, editorialista di Libero e di altri quotidiani, saggista. L'ultimo saggio che ha scritto, pubblicato da Mondadori, è Sud, un viaggio civile e sentimentale, cui abbiamo accennato a più riprese. E il numero verde per voi è 800 24 0024, per ritornare, se volete, con le vostre riflessioni libere sulle notizie della settimana. Ne abbiamo affrontate diverse, vorrei sentire qual è quella invece scelta da Michele da Bergamo. Michele. Eccomi qui, ciao a tutti. Ciao, ciao a te Michele. Parto un po' da lontano. Sì. Trattiamo il discorso di queste belle donne che si candidano. Un gran passo avanti delle donne l'avevano fatto col femminismo, forse è la forma più estremistica della protesta femminile, no? Sì. Fino ad aggiungere poi a queste grandi bellone, le veline, le velone, le velazze, le veline, le velotte, chiamatele come volete, no? È avvilente, secondo me, io parlo da uomo, è avvilente che la categoria delle donne, così detta categoria, ma odio dire categoria perché la donna è come l'uomo, un essere umano, dico qui che non si appropria della propria intelligenza, al di là dell'aspetto fisico che può essere bella, brutto, anche se credo che una donna non sia mai veramente brutta. Sarà la mia impressione. Ma non lo so, è un pensiero che ho anch'io, non lo so. Io non ho mai visto una donna, dico, una donna brutta. Che significa brutto? Brutta sarà brutto uno che dice le parolacce. Mi fa piacere detto da te, Roberto. Michele, che sei un uomo. Penso invece che la colpa svia nel sistema, che non dà la possibilità, ci sia un sistema dei mass media che non dà la possibilità a persone comuni, se io parlo della donna, dell'uomo di strada, non voglio dire l'uomo di strada perché andiamo nell'equivoco, ma è per questa simmetria semantica che colpisce la lingua italiana da tempo in bimbo, sì. Come si parla, faccio proteste. No, ma il discorso è che è evidente che non ci sia da parte del sistema, quindi abbiamo internet, la radio, la TV, eccetera, quello di dare la possibilità a tutte le donne che hanno voglia di impegnarsi politicamente, perché queste belle sono messe in risalto sempre da uomini, quindi parliamo del nostro amato fra virgolette premier, perché secondo me le altre non hanno spazio, quindi queste sono quelle che appaiono, che stanno in televisione dalla mattina alla sera, non ho mai capito che lavoro facile perché non le conosco, non so, poi saranno anche intelligenti, per amor del cielo, non mi permetto, non conoscendole. Quindi che cosa eleggiamo noi? Eleggiamo la bellezza o qualcuno che ci rappresenti poi in maniera soddisfacente al Parlamento europeo? Quindi allora, è mancanza di serietà, ecco, la serietà sta nel fatto che in Parlamento europeo ci devono sedere persone che ci vanno e quindi che lavorano, eccetera. Prima un bel taglio gli stipendi, perché io faccio un lavoro che la gente la vede in mezzo alla strada e, scusate, c'è una tristezza che fa paura. E posso chiederti che cosa fai, Michele? Io faccio il notificatore delle cartelle esattoriali. No! Posso assicurarvi che negli ultimi 6 mesi il mio lavoro si è triplicato. Sapete che sono di triplicato? Cioè significa, anche perché la gente ci parli, no? Suoni un campanello e poi ti trovi l'essere umano di là e ti dice... Ah, ma io non riesco a pagare. È un lavoro complicato il tuo, un po'. Diciamo che se vuoi il cervello te lo puoi lasciare a casa, tante volte perché non ti serve, no? Però è importante perché osservi, ascolti e senti l'umore della gente che ti parla e i loro drammi. Poi quello che mente, no? Che ti dice queste tasse non ne posso più, poi vedi che c'ha un villone con la piscina all'interno, no? Però sai, formalmente bisogna stare zitti, va bene così, no? Però poi ti trovi veramente le persone che magari erano ex dirigenti che sono a casa, cioè, e che sono lì, che sono disposti a fare anche l'operaio pur di portare a casa la pagnotta per sfamare la famiglia. Cioè, sono queste situazioni che ho osservato in questi ultimi 6-7 mesi che sono drammatiche. Mi meraviglio che questo dramma non venga a me. Ecco, per ritornare alle donne vado fuori discorso, no? E trovo che delle donne oggi come oggi, poi tra l'altro con la mancanza di lavoro, le prime che vengono tagliate fuori sono le donne. Sì, è vero. E questo, pensiamo anche a questo. Diciamo che questa crisi globale economica non l'hanno creata le donne, istituti internazionali, questo non è che lo dico io da femminista. Sono d'accordissimo, vedi, questo è il dramma, che la donna dovrebbe un po' riappropriare quella... Come anche per le guerre. E poi anche quel terreno che era nato col femminismo, non l'estremismo, il femminismo che non mi piaceva, no? Ma... ecco, le idee, diciamo, di equiparazione all'uomo, che sia lei a indicare a volte l'uomo da mandare in Parlamento, no? Magari saremo in un altro paese. Questo si sveglia la mattina, adesso mando mia sorella perché è in televisione, adesso mando mio cugino, poi non vorrei dilungarmi. No, Michele, è chiarissimo quello che dici e posso dirti in piena libertà e sincerità che hai tutta la mia stima, eh. Credo mi sia consentito di poterti dire. Grazie. Un complimento a veneziani, mi piace. Grazie moltissimo. Grazie Michele. Prima di sentire Claudio da Vicenza, sempre, e poi c'è Francesco da Firenze, sempre al numero verde 800240024, Marcello Veneziani, volevi... aveva ragione, era un'osservazione di buon senso, però c'è una questione preliminare, cioè che fino a quando noi non ripristineremo il circuito normale della democrazia in base al quale noi scegliamo i nostri rappresentanti, non avremo mai la possibilità di fare un discorso né sulle donne né su altro. Quindi stai dicendo che bisogna andare a votare il referendum il 21 giugno? Sì, voglio dire, il referendum lo affronta di striscio questo problema, cioè crea le precondizioni ma non può ovviamente chiedere di ripristinarle, però è un diritto elementare di una democrazia che credo dovrebbe essere proprio un diritto costituzionale per tutti i cittadini. Finché non abbiamo questa possibilità, come possiamo poi pensare di selezionare sulla base del merito e della qualità o privilegiare le donne se tutto viene deciso da 10 leader di partito? Quindi è quella, credo, la premessa, e poi si può fare ogni altro discorso. C'è, allora, dicevamo, Claudio da Vicenza. Prego Claudio, numero verde 800240024. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Claudio, sono dottoressa, ma puoi chiamarmi anche Roberta. Saluto tanto anche il dottor Marcello Veneziani. Sì. È sempre stato un giornalista che mi è piaciuto per la serietà e dopo anche la nitidezza che ha praticamente a fare il giornalista quando che si espone le sue... Quindi in modo sempre chiaro. Stimato. Ecco, io vorrei parlare un po' di giustizia civile, non penale, civile in Italia. Sì. Ecco, io mi chiedo sempre, cioè queste leggi che vengono fatte dove, che quando fanno delle sentenze in pratica in nome del popolo italiano. Io penso che, no, che gli italiani, quando hanno una causa civile in un tribunale dove c'è una burocrazia, si continua a dire che bisogna smaltire queste cause, ma manca i giudici, mancano i mezzi, le risorse. Invece secondo me, che la piccola esperienza che ho visto, non è vero. Bisognerebbe riformare il codice civile, quei 3.000 articoli che ci sono, no? Quel codice di procedura civile, io sono andato a guardarmi un po' il diritto perché l'ho fatto ancora 40 anni fa all'istituto tecnico, no? Dove che serve per istruire una causa, eccetera. Ma quel codice di procedura civile lì, quando c'è una normativa, che quella normativa lì richiama altri 15 articoli, no? Cosa vuol dire? Tenerli lunghi, allungarli? Allora io mi chiedo, ma che giustizia viene fatta? Dopo io vorrei al Parlamento, quando devono modificare una legge qualcosa, non ci devono essere tutti gli ordini professionali interessati. Una volta un legale mi ha detto, ma le leggi sono fatte dai parlamentari, d'accordo sono fatte dai parlamentari, però non mi rappresentano mica quei parlamentari lì quando fanno le leggi praticamente sulle cause civili, eccetera, che sono sempre una lungaggine. Cioè ci vorrebbe roba semplice e nello stesso tempo il giudice dovrebbe ascoltare il cittadino senza avere in fianco l'avvocato, cioè ascoltarlo e sentirlo, perché Claudio, no, è chiaro, sento tutta questa veemenza che è dovuta probabilmente a qualcosa che tu stai vivendo anche o hai vissuto personalmente. Questo mi fa venire in mente, Claudio, qualcosa che avevo letto in questi giorni a proposito di giustizia, adesso lo cerco di recuperarlo, proprio di questa settimana. Sì, praticamente sono quasi 10 milioni di euro, cioè un quinto di quanto pagato dai 47 paesi membri della convenzione che aderiscono alla convenzione europea sui diritti dell'uomo. Quindi l'Italia paga un quinto di quanto pagato da tutti questi paesi, ha sborsato nel 2008 lo Stato italiano per indennizzi a violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo commesse dalle autorità italiane, che hanno anche a che fare con i processi, con le lungaggini, insomma, quindi è al primato il nostro paese insieme alla Romania, primato assoluto per i casi pendenti in questo senso. Marcello Veneziani, hai un'opinione su questa cosa? Sì, guarda, io credo che il problema sia duplice se non triplice, cioè da una parte c'è il problema posto dall'ascoltatore giustamente, cioè quello di semplificare le leggi, perché noi abbiamo una quantità di legge imparagonabile con tutti gli altri sistemi giuridici d'Europa ed Occidente, e quindi questo indubbiamente è un male. C'è un po' micragnosi. Infatti, troppe. Dall'altra parte non abbiamo criteri di valutazione sulla base del rendimento dei singoli tribunali, delle magistrature, dei pretori, cioè bisognerebbe stabilire uno standard, perché in effetti spesso procedono lentamente, probabilmente non tutti sono solerti, c'è un tasso di assenteismo e di scarso lavoro molto alto tra i magistrati, questo magari è difficile dirlo perché i magistrati sono, come dire, una casta potente, però bisogna anche dirli, quindi diciamo ci sono due o tre problemi che si intrecciano su questo, insomma, e sicuramente questi sono i più rilevanti. Poi può entrare nel merito e vedere, insomma, che siamo un paese, come dire, con un alto tasso di avvocati, e quindi alle volte le creiamo dal nulla le cause, quindi c'è anche la capacità di artificiosamente di generare situazioni di vertenza anche laddove non ci sono gli estremi, non ci sono figure terze molto forti nel nostro paese che riescono in qualche modo a superare le vertenze sul nascere prima ancora di arrivare ad una causa cronica. Ecco, ci sono una serie di fattori e bisognerebbe semplificare il sistema giuridico italiano. Allora, intanto tra pochissimo abbiamo il colonnello Giuliacci, se volete sapere nelle prossime ore che tempo ci sarà. Però a proposito dell'influenza suina che ha colpito, dicevamo, Stati Uniti, in particolare il Messico, allora vorrei darvi le ultime notizie che stanno arrivando. Il Ministero della Salute italiano, in base appunto a quanto si apprende, sta approntando un volantino informativo che verrà distribuito in tutti gli aeroporti italiani, dedicato ai cittadini in partenza per città del Messico, dove forse sapete che sono state chiuse scuole, luoghi pubblici di vario tipo. Il documento conterrà informazioni, questo che darà il Ministero della Salute italiano agli italiani che partiranno per il Messico. Un documento conterrà informazioni sul virus dei suini che ha colpito la capitale messicana e consigli pratici sui comportamenti a cui attenersi. C'è Francesco da Firenze. Buongiorno. Buongiorno a te, Francesco. Io volevo tornare un attimo sulla polemica, la piccola polemica di Ibrahim che telefonava da Pisa per quanto riguarda i kebab. Sulla questione dei kebab, sì. Sì, praticamente facendo un po' un giro nei paesi arabi, cioè non può parlare di che noi italiani siamo razzisti velatamente o quantomeno come cultura vogliamo imporre la nostra, quando se uno va in Senegal, come sono stato io, si rende conto che per un cittadino europeo viaggiare in una città come Dakar sarebbe impensabile rispetto a un cittadino senegalese che sta a Pisa. Quindi mi sembrava, ecco, questo voler sempre dire che gli italiani sono razzisti, sono quantomeno, vogliono imporre, non è così, non mi trova per nulla d'accordo. Io vado nel kebab di Firenze, c'è italiani, c'è senegalesi, c'è musulmani, ma non c'è questi problemi, ecco, si vuole far credere forse che ingigantire queste polemiche su queste notizie magari, ecco, però nulla a che vedere secondo me, secondo il mio punto di vista, la cultura e il rispetto e l'ospitalità che abbiamo qui rispetto a altri paesi arabi e musulmani, ecco, tutto lì. Grazie Francesco, niente. Salutaci Firenze, e a questo punto dovrebbe esserci il colonnello, pronto colonnello Giuliacci? Ciao Roberto. Ciao colonnello. Saluto a tutti gli ascoltatori. Ci porti il sole o ambasciatore non porta bene? Guarda, oggi oddio, proprio il sole non c'è, ma nemmeno è una giornata brutta, nel senso che le temperature sono gradevoli. Mezzo un po' mezzo di nuvole soprattutto sul Piemonte, voglio dire, ma non sono segnalati in questo momento piogge, anche se nel pomeriggio qualche piovasco sulle Alpi occidentali, sulle regioni appenniniche, ma proprio a carattere isolato, così, ecco, temporaneo. La nuvoletta di Fantozzi. Senti, dici sull'Abruzzo, perché ci sono state ancora cattive condizioni. In questo momento nelle zone interne, insomma, dove è avvenuto il terremoto, ci sono delle nuvole, un cielo nuvoloso, ma al pomeriggio anche lì potrebbero uscire due o tre rovesci di mezz'ora, ma che quindi colpiscono aree limitatissime dell'Abruzzo, quindi non vedrei un problema per oggi. Guarda caso, domani in realtà peggiora, quindi andiamo avanti, peggiora su tutto il centro-nord, piogge già dal tardo mattino pomeriggio su tutte le regioni di nord-ovest, sul Veneto, l'Emilia, la Toscana, l'Umbria, il Lazio. Nella sera queste piogge si estendono anche al Veneto, probabilmente alla Campania, le isole maggiori, ma probabilmente l'Abruzzo ne uscire fuori solo con delle nuvole, quindi anche questo tutto sommato potrebbe essere una buona prospettiva, nel senso per loro, ecco, anche se dovesse esserci il piovasco, ma sarebbe anche in questo caso limitato, mentre sul resto d'Italia le piogge saranno insistenti, ecco, al centro nord, al sud, ma non al centro nord. Senti, per sintetizzare, colonnello, ma dico, siamo oggi al 25 aprile, giorno della liberazione, sì. Tra l'altro ci sembra di essere in primavera inoltrata, ma questa primavera ancora tarda, tu dici. Ma che dici, andiamo direttamente all'estate, a giugno. Tu sai che spesso ho discusso con te, con i tuoi ascoltatori, di questo aspetto, ma la primavera come dovrebbe essere? Non è come noi la vorremmo, ma così capricciosa secondo me non è stata mai. Vabbè, se non a caso si dice, no, marzo passerello, aprile ogni giorno un barile, voglio dire, i proverbi. Maggio proverbi, che cosa succede? Maggio per fortuna è meno gettonato in questo senso, perché maggio senz'altro vedremo più sole e meno nuvole. E ce lo auguriamo. Senti, ecco, colonnello, invece, siccome tra pochissimo abbiamo la viabilità, per la prossima settimana, senza andare di giorno in giorno, che so che però tu sei estremamente scrupoloso e dettagliato, così una visione d'insieme per dirci che settimana ci aspetta. Bella, brutta. Allora, diciamo, lunedì è ancora brutta al centro-nord, il sud deve andare bene. Brutta al centro-nord, martedino bruttino al centro-nord, mercoledì già migliora ovunque, giovedì dovrebbe essere una bella giornata quasi ovunque. E questo cosa significa? Che probabilmente il ponte del primo maggio, armatevi e partite, perché sì, anch'io dico armatevi partite, di bagagli, di valigie eccetera, perché probabilmente sarà un bel ponte. Ora buono, ne approfitto per dire questo, vedi, queste previsioni aiutano a voi, anche al meteorologo, ma a coloro che ci ascoltano a organizzarsi, quindi in questo caso è un invito a uscire, quindi queste polemiche stupide sul meteorologo che danneggiano il turismo sono pretestuose, inutili, no? Comunque nel caso prendetevela col colonnello Giuliacci, ecco, in questo caso anche declino per il ogni tempo che predico, prendetevela con Giuliacci, ecco. Va bene, caro colonnello, per te comunque un gioioso e luminoso sempre fine settimana. Grazie Roberto, contraccambio di cuore, Giuliacci. A tutti i tuoi ascoltatori diversi. vero cuore. Grazie colonnello. Ciao. Eccoci, abbiamo ancora una decina di minuti per stare insieme, per sentire le vostre riflessioni sui fatti della settimana, per ascoltare le considerazioni di Marcello Veneziani, mio opinionista di oggi, che ha pubblicato di recente il libro Sud, un viaggio civile e sentimentale. Vi ricordo, per chi avesse voglia ancora di stare in mia compagnia domani dalle 19 alle 19.30, farò una chiacchierata con Alice, la cantante, che ritorna di nuovo sulla scena dopo un po' di tempo di silenzio. Sentiamo ancora le vostre telefonate al numero verde 800 24 00 24. C'è Giuliano da Rieti. Giuliano, pronto? Eccoci qua. Eccomi qua. Allora, che tempo fa a Rieti, Giuliano? In questo momento mi trovo fuori Roma, sull'autostrada, sono fermo, ma c'è un sole bellissimo che arriva fino a Rieti sicuramente. Però secondo me tu sei di origine siciliana o qualcosa del genere? No, abruzzese. Ah, abruzzese. Tra l'altro torno dall'aver portato mia madre di nuovo a casa sua, perché ha avuto la casa lesionata dal terremoto, è stata con me qualche giorno e adesso si è trasferita da una cognata perché insomma vuole stare vicino ai suoi posti. Certamente. Vuole curare adesso anche, benché abbia già abbia 83 anni, vuole curare da vicino i suoi interessi suoi nella ricostruzione. Certo. Bene, Giuliano. Quindi anche allora, tu in qualche modo indirettamente hai vissuto questa cosa, direttamente. Allora Giuliano, qual è invece il fatto? E continuavo sulla storia del kebab. Sì. E diciamo così, innanzitutto... mi fa piacere che che tu hai lì come opinionista Marcello Veneziani, perché è sempre preciso e chiaro, naturalmente esprime anche una sorta di riserbo su certe espressività, insomma, però mi piace, tra i tanti mi piace. Allora dicevo questo, la mia prima reazione nei confronti di quel discorso fatto da te con Ibrahim era partita dall'uso del tu, che tu usi con tutti i tuoi ascoltatori e i tuoi interlocutori, sì, ma che nei confronti dello straniero, diciamo fra virgolette, ancora oggi produce, e anche in me, quella sorta di reazione, ma gli darei del tu se non fosse straniero, se fosse italiano questo sconosciuto forse gli darei del lei, no? Però perdonami, sì. Giuliano, tu sai che io sono al di sopra di ogni sospetto, sì, per sì, infatti do del tu e mi piace che mi si dia del tu, può piacere. Ed è giusto, ma non in una maniera impersonale, proprio in una maniera partecipata, sì, questo, poi esattamente. Trattare tutti ugualmente sembra quasi dare la stessa indifferenza a tutti quanti. Invece, no, da calore. Parte mia, confido che il tuo è proprio partecipazione, sì, nel rapporto con gli ascoltatori. È con il gli piacere proprio di avere a che fare, di conversare con le persone, un po' più caldo. Quindi, diciamo, sorpassando questo aspetto ed ascoltando ciò che ha detto Veneziani, sì, mi è piaciuto quel suo intervento circa la, diciamo, opportunità. Come se ci fosse una sorta di bisogno di una valutazione di impatto ambientale per tutto ciò che incide sulla società, non solo sul paesaggio, no? Non so se mi spiego. Sì. Ed è una cosa che mi fa piacere lui l'abbia detta, mi fa piacere possa appartenere al dibattito, mi dispiace poi che parte da atteggiamenti che possono essere fraintesi, per l'amor di Dio. Sono certo che la questione del kebab, quando la prima volta io l'ho visto a Roma, doveva già essere affrontata in quel momento, non in termini, diciamo, di reazione a un'intrusione, ma in termini di accoglimento di una diversità. Non è stato fatto allora, oggi diventa un problema, ma questo succede su molte cose, su tutto quello che per esempio la modernità ci porta, no? Il telefonino, per non arrivare alla centrale nucleare, insomma, tutto quello, internet, eccetera, deve esistere una sorta di comportamento, di politica, di accoglimento nei confronti di tutto, così come dell'immigrato, del migrante, chiamiamolo come ci pare, no? Ma vuol dire buon senso, però, questo vuol dire, Giuliano? Sì, il buon senso, però cerco di ribadire la volontà di non anticipare il fenomeno, ma di accompagnarlo, perché poi la nostra società è in continua trasformazione. Questo senza dubbio. Questa del kebab può essere, come dire, uno dei tanti sintomi, ma io dico, quanti italiani stessi si sono sentiti non accolti in quanto nuovi rispetto alla realtà che da migranti incontrano? Io posso dire la mia, che dalla provincia dell'Aquila, dove sono nato, ho vissuto e dove sono riuscito anche fortunatamente io ho un grande debito con l'Aquila, per esempio, e ho piacere di dirlo adesso, un grande debito con la Casa dello Studente. Ho vissuto 5 anni nella Casa dello Studente e sono riuscito a laurearmi all'Università dell'Aquila. Ed è una cosa che mi ha fatto piangere, certo, quella che è successo in questi termini, perché mi rendo conto poi quanti ragazzi hanno studiato ancora in quella casa dove ho vissuto io, no? Allora dicevo, sono anche emigrato internamente a Roma per lavorare, e lo scontro fra le diversità lo si sente. Già dici tra l'Aquila e il Lazio. Eh sì, già si sente lo scontro, io l'ho vissuto sulla mia pelle. Allora ho una sorta di comprensione, che non è una comprensione paternalistica, diciamo capacità di comprendere quello che può essere la reazione dello straniero nei confronti di questa legge contro il kebab, ma mi rendo conto anche che chi fa il commercio del kebab poi è innanzitutto è anche egli un imprenditore, un commerciante, quindi una mentalità forse ancora più aperta, no? Giuliano, mi è chiarissimo la tua analisi. Scusami se mi sono allungato. No, ti ringrazio, perdona me che i tempi sono sempre stretti e vorrei sentirvi a lungo, però c'è Valeria Della Valle, prima di sentire poi un commento finale di Marcello Veneziani. Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, che ha appena finito di curare, ha diretto insomma l'ultima edizione del vocabolario italiano della Treccani, quindi per la lingua insomma diciamo è un must. Valeria Della Valle, senti Valeria, riesci proprio in un minuto e mezzo a farmi il tuo commento invece sulla questione dei reality? Se ne sono chiusi 3 mi pare questa settimana con i relativi vincitori, e il linguaggio anche, no? che rendono poi comune, certo. Che cosa... Sarò velocissima, sì. Sarebbe molto facile fare la cosa più ovvia, cioè scandalizzarci come un po' facciamo tutti anche sulle pagine dei giornali, perché i protagonisti di questi reality parlano un cattivo italiano. Io andrei oltre, non è tanto l'errore di grammatica che mi colpisce quanto l'errore delle idee, se posso dire, cioè la banalità. E allora dove c'è una situazione di banalità, anche la lingua non può essere una lingua alta, ma perché dicevo è troppo facile scandalizzarcene, ma perché sono spettacoli basati su questo principio. Purtroppo la formula del loro successo è vendere concetti facili, bassissimi e direi banalità, e questo mondo non può che esprimersi attraverso una lingua ovviamente bassa. Quanto poi ai famosi errori che tutti abbiamo notato, naturalmente non in tutti i protagonisti dei reality, ma alcuni meno, qui aggiungerei solo una nota polemica: il nostro non è un paese che investe molto sulla scuola come valore, e allora è quello che un po' ci dobbiamo purtroppo aspettare. Una nota positiva per chiudere: i trisnonni di quegli stessi protagonisti che ci affannano tanto per il basso livello linguistico, però i loro trisnonni non sarebbero arrivati a quel livello neanche a quel livello di espressione, perché si sarebbero espressi solo in dialetto. E allora da questo punto di vista forse un passo avanti c'è. Grazie Valeria Della Valle. Prego, arrivederci. Saluto e ringrazio alla parte tecnica Giacomo Spunta, e poi c'è Gigi Borghi invece in assistenza e regia. Chiedo a Marcello Veneziani in chiusura proprio un saluto di mezzo minuto, se riesci Marcello, se hai voglia di fare proprio un commento volante. No, un lapidario commento sui reality, che sono una brutta realtà, però ecco, non si può sopprimere, cioè chi chiede di chiudere i reality perché sono un'espressione di banalità, lo comprendo per le sue motivazioni, non condivido come decisione. Si devono estinguere, come dire, nella volontà popolare degli spettatori, questa è l'unica possibilità e l'unico auspicio che possiamo fare. Grazie Marcello Veneziani, grazie di essere stato qui. Roberta Giordano vi saluta, vi auguro un solare fine settimana.